non so se lo sapete, ma in America hanno già iniziato a mettere i microchip all'interno del corpo umano per registrare, per mettere i soldi, e quindi è un controllo di tutta la popolazione. Quelle persone che se lo fanno iniettare non sanno a cosa vanno incontro. La zanzara. Tutto il resto è no. Gioia. Eh già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità. Eh già. Buongiorno di nuovo, segretario. Io sono ancora qua. Ah, si sente Vasco. È ancora qua, questa è la notizia. Va dritto? Eccola. Va dritto al Quirinale. Un'altra diavoleria. Però l'incarico a mille paletti, l'incarico a Bersani è ad ostacoli. Lo fa capire Napolitano, che non è che gli dà l'incarico subito. Prima spiega tutto quello, la complessità della cosa, e poi conclude con queste parole. Ho pertanto conferito, in continuità con eloquenti, appropriati e non lontani precedenti, all'onorevole Luigi Bersani, Pierluigi Bersani, l'incarico di verificare l'esistenza di un sostegno parlamentare certo, tale da consentire la formazione di un governo che, ai sensi del primo comma dell'articolo 94 della Costituzione, abbia la maggioranza in entrambe le camere, dice Napolitano. Hai capito, Parenzo? Ma siccome, pare i grillini hanno detto niet, ando va? Comunque vedremo. Mi pare scontato, ma era la mossa che ci si aspettava, no? Sì. Allora, i signori del 5 Stelle ci accusano di scarsa deontologia professionale, cose di questo tipo. Scrive un tale che si chiama Incerti sul blog di Grillo, uno dei responsabili della comunicazione. Esiste ancora la deontologia professionale da parte dei giornalisti? Loro si ergono, no? Anche a maestri di giornalismo, i certo. Signori del 5 Stelle. I signori che hai votato. Ma che c'entra? Vito Crimi si ferma a chiacchierare per strada con due universitari che non si palesano come inviati della radio universitaria online Radio Luis, registrano a sua insaputa una conversazione. Tutto questo è falso, è totalmente falso. Primo, si sono palesati. Secondo, hanno subito detto a Crimi che registravano. Dunque la conversazione non è a sua insaputa. Cancellate subito questo blog, questo post, è tutto falso, tutto totalmente falso. Una conversazione privata diffusa poi pubblicamente, spacciata da Intervista, si capisce benissimo, basta ascoltarla. No, è successo molto semplicemente questo, che due ragazzi mi hanno offerto del materiale che io ho trasmesso. Non c'è mai stata un'intervista radiofonica, era un'intervista realizzata da due ragazzi della Luis, di cui Vito Crimi era perfettamente consapevole. Poi quello che loro volevano fare con il materiale erano affari loro, no? Basta vedere, scrive sempre questo tizio, come un fuori onda palese. Ma quali fuori onda? Non esiste fuori onda, è falso pure questo. Di due studenti universitari sia stato rilanciato come un'intervista ripresa e trasmessa dalla trasmissione La Zanzara di Radio 24, emittente legata al Sole 24 Ore, che percepisce pubblico denaro. Ora, cosa c'entra il pubblico denaro percepito dal Sole 24 Ore, che è percepito anche da altri giornali, di cui si può discutere fino all'infinito, con questa intervista? Non c'entra assolutamente nulla. Sembrava la fine del mondo. Poi il fatto che vogliono decidere come funziona l'informazione politica in Italia, cioè cos'è gossip, cosa non è gossip, scrive a un certo punto questo Incerti per conto di Grillo: nell'interesse dei cittadini e della crescita culturale dell'Italia si chiede un'informazione che parli di fatti concreti. Ma l'informazione parla di tante cose, la democrazia è anche questa. Comunque Grillo ieri alla televisione turca: Renzi è come un cartone animato, copia e disincolla. Mi sta parlando di un cartone animato. cioè, sono cartoni animati, copia e disincolla lo chiamano. Lui copia e dice: se noi facciamo le cose che fa Grillo, Grillo non esisterebbe. Maroni è un rappresentante dell'Oreal. Maroni è un rappresentante dell'Oreal, di profumi, di shampoo, dai. Dai. Al diavolo non si vende, si regala. Sgarbi contro Monti, Fini e Casini, ormai si sta parlando dello strapassato, eh. Sentiamo Sgarbi, succhiavano sperma di Berlusconi come le concubine, addirittura. Fini con Casini, le due prime concubine di Berlusconi. Berlusconi avrà dato anche soldi, aveva due concubine che gli succhiavano il sangue, lo sperma, tutto gli hanno risucchiato per diventare i due leader. Io li vedevo da bambino, li vedevo nel 92, 93, 94, erano lì il loro partito, le loro ideologie. Uno l'ha bruciato perdendo tutto, l'altro ha fatto il furbo capendo che doveva valorizzare. E infine il confronto Grasso-Travaglio. C'è Maretta dalle parti tue, lì alla 7, Parenzo, perché non si sa come e quando si farà questo confronto. A mio parere non si farà mai, e tra l'altro non capisco perché Grasso si sia esposto ieri in maniera così clamorosa. Non lo capisco dal punto di vista della comunicazione, poi ovviamente no, capisco... No, pare che si faccia a Piazza Pulita. No, non hai capito nulla perché non ti sei informato. Allora, intanto sentiamo Grasso che dice: voglio il confronto TV, carte alla mano. Non hai visto? Appunto, stamattina. Ma stamattina, tu lo sai che sono le 18.40, sì? No, no, tanto per capire. Ora italiana, dici? Sì, sì, vabbè, lasciamo perdere, va. Non sai manco le cose di casa tua, figurati un po'. Grasso, confronto TV, carte alle mano. Certamente non posso né per telefono né in questo momento invadere una televisione, non è nel mio stile. Vorrei però invitare Travaglio a un confronto televisivo con le carte alla mano su tutto quello che di infamante è solito dire, scrivere nei miei confronti e soprattutto della... Io trovo assurdo che il Presidente del Senato chiami in diretta, ma no, assurdo dal punto di vista comunicativo, chiami in diretta in una trasmissione, si metta lì sulla graticola, spernacchiato da Travaglio e da Santoro, e che poi addirittura si offra per un confronto televisivo. Ma il Presidente del Senato non è mica più il procuratore capo o il certo capo della procura antimafia, cosa che già era abbastanza bizzarra, ma comunque ognuno ha il suo modo di comunicare, lui ama i giornalisti, ma che cosa ti offri per un confronto? Ma lo dico dal punto di vista comunicativo, è una follia. 800 24 800 24, è con noi Marcello Dell'Utri, buonasera. Buonasera, come sta? Come sta? Io sto benissimo. Dia un consiglio a Grasso. Io sono d'accordo su quello che lei ha detto prima, cioè mi sono meravigliato di questa telefonata, eh. Perché quando uno si mette a sul livello di quelli che accusano, sì, non si capisce più chi ha torto e chi ha ragione. Cioè lui lo ha fatto prima da procuratore antimafia, doveva stare zitto, diciamo, a non rispondere neanche a queste cose, a maggior ragione dalla carica che oggi riveste. Mi ha meravigliato, francamente. Cioè non doveva nemmeno chiamare. Poi Berlusconi chiamò. Berlusconi. Ma perché c'entra? Berlusconi fece un errore comunque. Quello è Presidente del Senato, scusa. Però fece un errore comunque Berlusconi a chiamare, o no? Berlusconi non fa errori. Non fa errori mai. Berlusconi per me è come Garibaldi, non parliamone neanche. Scusi un attimo, però sempre a proposito di questa vicenda, ma addirittura offrirsi per un confronto da Presidente del Senato non è un po' bizzarro? Assolutamente. A parte che sono cadute tante regole, sono vabbè, cadute certo, tante vabbè. Cose, ma non lo trovo affatto utile per lui. Probabilmente sarebbe strangolato fra qualche anno di presidenza, quando farà esperienza, perché in fondo insomma è il neo presidente, è un neofita, insomma. Deve capire, probabilmente ancora manco si rende conto di dove però si in può. Un confronto con Travaglio, mi dica la verità, se lo sbranerebbe Travaglio, no? Sicuro. Lo sbranerebbe, dunque non ci deve andare. Non ci deve andare, ma non ha bisogno di andare. Poi con Travaglio, perché con Travaglio? Ma appunto, ma non con nessuno, non deve andarci. Ma non, che cosa deve difendere? È il Presidente del Senato, diamine. L'onore, il suo onore. Vabbè, ma che onore? L'onore di Travaglio, perché se accusa Travaglio e cose allucinanti come fa Travaglio, e questa di Grasso sicuramente è una palla di quelle grossissime, Travaglio è il megafono di Ingroia, ancora non abbiamo capito, scusate. E allora Ingroia era nemico di Grasso e continua Travaglio a fare il lavoro di Ingroia. Dice che non ha mai fatto indagini sulla politica e la mafia, Grasso, a lei risulta che non abbia mai fatto indagini? No, io non me ne sono preoccupato, io conosco Grasso da quando era un bambino, ed era un ragazzino delizioso. Ma eravate amici? Eravate amici? Ma io ho 10 anni più di lui, quindi amico no, ero il suo maestro. In che senso? Maestro di calcio. Maestro? Allenatore, sì. In che senso, scusi, allenatore? Io ero della Bacigalupo, la famosa Bacigalupo. Ah, come no, certo. Famosa, certo. E anche malamente citata. E citata. Sì, sì. Era una grande società di calcio, di scuola di calciatori, di giovani. Lei era l'allenatore? Io ero allenatore, a parte sono stato il fondatore già da ragazzino. Sì. E Grasso invece? Grasso giocava, era un giocatore straordinario, bravissimo. Ma è stato un bravissimo magistrato, Grasso? Secondo lei? Non lo so, io credo di sì. Non ho mai seguito Grasso come nessuno, non mi interessa. Io come non è nessuno? Non ho seguito come non ho seguito nessuno, ho capito. Che frega. No, ho capito, però da quello che risulta è un bravissimo magistrato, cioè fa bene il suo mestiere, ha fatto bene il suo mestiere. Se è arrivato a capo della... della procura sarà bravo, io non lo discuto neanche. Una volta voleva dare un premio a Berlusconi per le politiche antimafia sul sequestro dei beni, se lo ricorda, no? Certo, avrebbe fatto benissimo a dare un premio antimafia a Berlusconi. Ma sì, perché il governo Berlusconi è quello che ha lottato di più contro la mafia, ma è una cosa, diciamo così, oggettiva. Non la vuole, certo, ammettere soltanto chi è in malafede, è una cosa oggettiva quello che ha fatto Berlusconi. Lei lo darebbe un premio a Grasso come magistrato antimafia per eccellenza? Come equilibrio sicuramente, è una persona per bene, è un equilibrato, non è un fanatico, non so il resto. Senta, ma qualcuno pensa a Grasso come capo di un possibile governo di Berlusconi? Lo voterebbe, secondo lei, un governo, diciamo, in cui ci sono tutti dentro, eccetera? Guardi, il governo Berlusconi voterebbe un governo... Cioè Berlusconi lo ammira, lo apprezza Grasso? Ma non lo conosce neanche, non ha motivo né di apprezzarlo né di vituperarlo, sì, nessuno, sì. Non c'entra niente, ma lei, non lo conosce neppure. Beh, secondo lei sarebbe un buon capo del governo Grasso? No. Potrebbe fare meglio? No. No, ma se fai il presidente del Senato, però si parla di Grasso. Ma stiamo ancora a parlare, di che stiamo a parlare? Ma Bersani lo ammira lei invece? Chi? Oggi Bersani che ha ricevuto l'incarico. Carico, poverino, che bello incarico ha ricevuto. Una patata bollente, altro che carico. Lo ammiro, lo compatisco. Cioè, so cazzi, come si dice a Roma, no? Come si dice a Roma? Non so a Como come si dice, o a Palermo come si dice. Detto che lei... A Palermo come si direbbe? A Palermo come si direbbe, mi scordavo. Come? Me lo sono dimenticato. No, come? A Palermo come si dice? Quando uno c'ha una brutta gatta da pelare, come si dice? Eccoci qui, 800 24 00 24, con Marcello Dell'Utri. Mi fa una certa impressione, Parenzo, non chiamare più senatore Marcello Dell'Utri. Per noi lo sarà in eterno. Ci siamo liberati. No, non è come il sacerdote una volta lo è, poi per sempre senatore decaduto. Ma come lei fra poco piglierà pure il vitalizio? Io non lo so, ancora non so niente. Certo, io dovrei, perché la mia età me lo consentirebbe. Eh sì, mi pare che fra qualche mese mi dà la vitalizia. Ma tanto a lei che gli servono i soldi? No, sì, servono. No, i soldi gli servono sempre. Quanti debiti ha lei? Un sacco di soldi? No, adesso debiti, dopo che ho venduto la casa, me li sono tolti tutti. Tutti tolti i debiti, finito, chiuso. Grazie a Berlusconi. Ovviamente grazie a Berlusconi. No, grazie a Berlusconi, ma grazie alla casa che ero riuscito a mettere su. Sulla casa avevo messo i maggiori debiti poi. Sì, certo. Tra mutui, fornitori, guardi, è una cosa... Mai più nella vita farò una casa. Ma scusi, ma questa palafitta, questa condanna a 9 mesi, pure questa ci voleva. Ma questa mi ha fatto ridere, francamente, per quanto sia sempre una cosa seria. Ma che ci faceva questa palafitta? Ma non è una palafitta, è una casa sull'albero, una free house, si dice. Come una si chiama? Casa che tra l'altro come si chiama, scusi? In tutto il mondo. Free house. Sea house. Free albero house. Ah, tree casa house. Sull'albero. Sì, tree house. Capito? Allora è una cosa bellissima, peraltro una cosa stupenda, passavano tutti con le barche fermandosi, specialmente, sì, i bambini, a vederla. Sì. Era una cosa... Attorno. Sì. Ma è veramente bella. Scusi, perché? Però era abusiva, sostiene ma il giudice. Ma chi è abusiva? Questo qui è un giudice che io comunista? Non so chi sia, per carità, non voglio fare critiche. Comunista? Ma insomma, La casa, non lo so se sicuramente non è dei nostri, per così dire, non la pensa così, è uno che avrà dei problemi sociali, secondo me. In che senso? Che problemi sociali? Scusa. Io guardi, credo, pensi, la sovrintendenza dice non sì, lo c'è so, nessun questo lo so. Abuso. Sì, il tecnico comunale dice non ha fatto nessun abuso. È vero, ma perché la condanna? È vero. Questo bisogna riconoscerlo. La sovrintendenza e il comune dicono che non ci sono abusi. Abuso, e il giudice l'ha condannata a 9 mesi. Perché mi chiamo dell'Utri, allora carichiamo addosso. Scusi, perché problemi sociali, dice questo giudice? No, io ho detto, è uno che non vede le cose. Cioè, come si fa una problemi sociali per una cosa che non esiste? Non esiste. Cioè, non esiste. Dov'è il reato? No, mi interessava questa cosa dei problemi sociali. Comunque, una casa bellissima, lei dice, una palafitta stupenda. Non è una palafitta. Ma che ci faceva? Una casa, una treehouse, che ci faceva là? Lì ci si mette lì per osservare la natura, gli uccelli, si siede in una bella sedia a sdraio, si leggono i libri, si conversa, si prende un tè. Lei lo faceva? Ma non sono riuscito a farlo perché non me l'hanno fatta finire. Ah, vabbè, chi ci andava allora? Anche. No, ancora non ci vado. Ah, nessuno ci è andato? Ancora non ci è andato nessuno. Ma non è tornata Berlusconi? Me l'hanno bloccata mentre era in definizione. Pure? Sì, pure. Sì. Mamma mia. Sì, ma l'invidia. È l'invidia, è il giudice invidioso, dice lei. No, il giudice, intanto invidia di qualcuno nel paese che ha denunciato. Qualche comunista, lì lo possiamo dire, sì, qualche comunista. Nel paese c'è qualche comunista che ha denunciato. Qualche comunista c'è, sempre lo si trova, dappertutto. Un Gesù Campane, Gesù comunista. Un Gesù Campane e Gesù Comunista, questa non è male, sì. Però. Dove ci sono? Scusi, lei è stato chiamato in causa pure da De Gregorio, che ha detto: io ho incontrato dell'Utri a giugno scorso e gli ho chiesto aiuto. Lei ha visto che l'ho vista questa dichiarazione, da qui ho desunto che dice delle fesserie, perché non è vero. Cioè, io l'ho incontrato, certo che l'ho incontrato. Ma vuole al Senato, forse è venuto anche a trovarmi in albergo a prendere un caffè, non l'albergo che dice lui. Ma voleva i soldi da Berlusconi, secondo lei? Ah, non lo so, cose che sono scritte lì, no? Mai saputo nulla. È impazzito, De Gregorio. È impazzito? Che ha non fatto? Non lo so che cosa è successo, francamente. Non lo chiede a me perché non sono... Non sa nulla di questa storia, 2 milioni di euro in nero da Berlusconi, lui dice. Non so niente, assolutamente. Sono tutte cose che ho letto anch'io sui giornali. Uno dice sempre, no, dell'Utri sa tutto, no, Parenzo? Uno pensa sempre, dell'Utri sì, sa... Esatto. Ma ha visto Ingroia d'Aosta? Ma quanto è contento per Ingroia d'Aosta? Mi dica la verità. Ingroia d'Aosta? No, niente. Io penso... Molto contento, lei è molto contento, mi dica la verità. Mi preoccupano i poveri cittadini valdostani. Insomma, devono... Subire, dice lei. magari riapre il caso di Cogne, che ne so. Non lo so, non credo, però lì non credo che troverà terreno. Perché? Non c'è il clima palermitano, siciliano. Ma d'Aosta però è un bel posto. Andare a sciare c'è Courmayeur, che è stupendo. Beh, non credo che avrà tempo, però dice di sì. Metterà sotto processo gli stambecchi, probabilmente. Scusi un attimo, però uno potrebbe dire anche purtroppo torna magistrato, che era quasi meglio che fosse eletto, o no? Dal suo punto di vista, o sbaglio? Sì, ma intanto lì possono essere eletti tutti, io non c'entro niente su questo, non è stato eletto perché... D'accordo, però uno potrebbe dire dal suo punto di vista, purtroppo torna a giudicare. Sì, certo, da questo punto di vista sì, però anche in politica... Poteva fare danni, dice lei. Poteva fare danni, in questo momento no, perché tanto i danni ci sono già, li fanno tutti i danni. Ma Grillo lei lo ammira in qualche modo, ha un'ammirazione per Grillo? Per Grillo, più che l'ammirazione... piace perché dice cose che io condivido, tantissime addirittura, ma tantissime. Ma il governo lo vedrebbe bene? Un governo con Grillo? No, non lo vedo. E allora se condivide tutto lo dovrebbe volere il governo pure? Condivido, scusi. Che vuole cambiare le cose, che vuole sfasciare delle cose che sono incrostate da per esempio? Secoli, la burocrazia per esempio, sì. È una cosa veramente che non si può... Cioè forza Grillo, si potrebbe dire forza Grillo, continua così. Ma io guardi, credo che Grillo avrà questa funzione, che... sponderà, distruggerà perché poi si possa ricostruire. Senta una cosa, ma li vogliamo restituire questi libri della biblioteca Girolamini o no? Ma io l'ho già restituito. Ma poi... uno, manca Tommaso Moro, ma com'è che lei gliel'hanno dati gratis? Sto De Caro che ha preso 7 anni gliel'ha dati gratis. Ma non c'entra niente, questo De Caro era un esperto di libri, un libraio. Vabbè, adesso è anche un mezzo bandito. Insomma, No, certo, ma questo si è saputo dopo, voglio dire, se ha fatto questo reato bruttissimo... Ma ne manca troppo. Uno, pare, Tommaso Moro. Un libro di poche migliaia di euro, non, non è una cosa importante. Ma l'ha pagato lei? L'ha pagato sto libro? No, no, lui i libri me li regalava. E te credo, li rubava. Ma per l'onomastico, per Natale, per qualche ricorrenza, sempre dicevo, ho qualcosa ho comprato. Ma dove sarà? Dove sarà sto Tommaso Moro? Ma ce l'ho, sicuramente, ho già detto che lo troverò, se mi danno il tempo. Lo scoveremo, lo scoveremo. In ogni caso, se non lo trovo, lo ricompro, non c'è un problema. Assolutamente. Non è un libro, no, ricompriamo. Quanto costerà? 5.000, 3.000? No, costerà di più anche, un dito sui 10.000. 10.000. Un abbraccio, a presto! Grazie, Cruciani. A presto, a voi. Ciao. Sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Grillo, per essere più felici dobbiamo essere più poveri. L'arpa. Ceausescu! Ceausescu! Questo paese è fallito dal punto di vista economico, politico, sociale. Siamo pieni di macerie. O azzeriamo tutto e ricominciamo a pensare in un altro modo. Siamo costretti a immaginarci un mondo che non sia del PIL, della crescita, dello spread. Vogliamo essere più ricchi o più felici? Probabilmente noi proponiamo un mondo adesso diverso, che saremo un po' più poveri, forse per i primi 4-5 anni, ma un po' più contenti, un po' più felici. Hai capito, Parenzo? Un po' più poveri, un po' più felici, no? Beh, lui non sarà un po' più povero. Perché? Beh, lui non mi pare che abbia diminuito i suoi incassi, che non faccia più i suoi spettacoli. Mi pare che per lui ci sia una decrescita, diciamo, no? Beh, gli spettacoli li ha interrotti, li ha diminuiti, non va più a, non incassa più al botteghino. Ah, non incassa più. Non fa più spettacoli. Intanto il tuo amico Pacifici della comunità ebraica romana dice: 5 stelle peggio dei fascisti, pericolo islamista. Grillo risponde: insulti gratuiti e infondati. Intervista al quotidiano Haaretz, sì, ho visto. Vabbè, svegliati però, sveglia. Non è che stiamo qui a pettinare. È eccessivo. Le consultazioni di Bersani saranno nella sala del cavaliere, alla Camera. Come la mettiamo, Bersani, con la manifestazione domani No TAV, dove ci saranno molti parlamentari 5 Stelle? Come la mettiamo? Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Napolitano in carica Bersani. Verificare le condizioni per la formazione di un governo che abbia sostegno parlamentare, certo, larghe intese difficili. Bersani, massima determinazione ed equilibrio. Governo per le riforme, incontri con partiti e forze sociali. Serve tempo, situazione difficile. PDL, missione impossibile, o veniamo coinvolti o non troverà alcuna maggioranza. Scelta Civica, aspettiamo le proposte su Europa e riforme. I 5 Stelle non cambiano posizione, nessun sostegno al PD. Crimi, Bersani rinuncia ai rimborsi elettorali e ne riparliamo, ma non lo farà. Quadro allarmante di Confcommercio, 4 milioni di poveri, PIL in discesa, crollo dei consumi. Lavoriamo più dei tedeschi, ma produciamo meno. Cipro, ultime ore per evitare la bancarotta. Tra pressioni europee e proteste di piazza, il governo presenta un nuovo piano di salvataggio. E i Marò, accusati dell'uccisione dei 2 pescatori indiani, sono in India. Siamo soldati e andiamo avanti, dicono, ma esplode la polemica sul governo per il doppio dietrofronte. Non me moleste moschito. Why don't you go? Non me moleste moschito. Le ridicole precisazioni di Vito Crimi, che chiede scusa, ovviamente, il capogruppo al Senato del 5 Stelle, chiede scusa per quella frase incriminata, che è questa qua: i giornalisti mi stanno sul cazzo, vi facciamo riascoltare. Eccola qui. Rispetto alle TV e ai giornalisti, guarda che veramente li sto reclutando tutti, perché... E infatti noi non siamo sul cazzo, guarda, giornalisti, è una roba. Ma perché purtroppo c'è sempre il discorso di cercare lo scoop e basta. Non me moleste moschito. Sentite cosa dice: mi hanno detto che non erano giornalisti, una situazione non istituzionale. Falso. Ti hanno detto sin dall'inizio che erano dei ragazzi di Radio Luis e che stavano registrando. Ti hanno messo davanti il telefono, poi ce lo spiegheranno. Avevo fatto 20 minuti di strada con la mia borsa piena di roba in, al tracollo, mi hanno fermato. Crimi, facciamo due domande. E prima di fare le domande mi hanno chiesto appunto... E io ho chiesto: ma siete giornalisti? No, per carità. Ho detto no, e lì mi è scappata quella frase. Però stiamo parlando di una situazione assolutamente fuori da ogni livello istituzionale. Beh, ti credo, certo, non c'è bisogno che ce lo racconti tu che è fuori da qualsiasi livello istituzionale. Comunque dopo dice studenti e non giornalisti, ho capito dopo che registravano, no? Dunque sapeva a un certo punto che registravano, è stata fatta passare come intervista della Zanzara, no, non è vero, un'intervista fatta da Radio Luis e poi materiale consegnato al sottoscritto. Molto bene. Non potrò più parlare liberamente con nessuno, ma questo sono affari tuoi, cioè non, basta che non si danno lezioni di giornalismo. Esiste il gossip parlamentare da quando esiste la democrazia, esiste anche il gossip parlamentare. Esiste questo descrivere gli umori, le persone, i tic, esiste tutto questo, arrendetevi. Ma è con noi il mitologico Giampaolo Vanoli, buonasera. Buonasera a tutti voi. Come stai? Benissimo, eccezionalmente bene. Bevuto un po' di piscio oggi? No, oggi no, perché non la bevo regolarmente, la bevo ogni tanto quando necessita. Ho fatto la prova per 4 anni, come vi ho detto, sì, ieri sera, certo. Perché volevo capire fino in fondo le problematiche, i limiti. Ma scusi... Mister bevitore di urina, le chiedo con come, senza alcun sarcasmo questo, ma quando lei avrà un alito che puzza in modo terribile con tutta questa urina prima che dovrebbe essere davanti a me per poterlo sentire col suo naso, se riesce a sentirlo, perché sento che non funziona molto bene il suo naso, ha raffreddore per caso? Scusa Paolo, scusami un attimo, però da che cosa sei guarito ma no, io durante questi 4 anni? Non mi sono guarito da niente, nel senso, perché ero già guarito dalle mie allergie che avevo da anni, all'età di 30 anni, quando ho cominciato a applicare la medicina naturale. Avevo 4 mesi di raffreddore all'anno, sono andato dagli specialisti più importanti, non sono riusciti a risolvermi il problema, mi sono guardato allo specchio e mi sono detto: o sono scemo io o sono scemi loro. Sono scemi loro. E dunque via giù con la pipì? Ho aggiunto nell'imparare e praticare le varie tecniche che ho man mano imparato a suo tempo, anche quella dell'urinoterapia, che non è niente di straordinariamente strano per voi occidentali. Sì, però dico voi occidentali perché io mi ritengo un umano, né occidentale né orientale. Ma trae origine da che cosa questa roba? Ma trae origine, come ho accennato ieri sera, da una semplice constatazione di fatto che i primi uomini, che erano degli umani, ma non diciamo completamente intellettivi come lo sono oggi l'Homo sapiens, era l'uomo naturalis, lo chiamo io, utilizzava tutto ciò che aveva a disposizione, urina e feci comprese, anche oltre alle radici, le piante, i fiori, le gemme, per la propria salute quando aveva qualche problema. Scusami, però Paolo, che cosa c'entra ieri a gennaio al 69? Che c'entra? Ah, il 69 è nato proprio da lì, cioè? Il fatto che nella coppia si cominciava a utilizzare anche l'urina dell'altro e ci si vedeva direttamente alla fonte. Ma no, dai Paolo! Ragazzi, voi non avete idea di come gli animali lavorano. Ma che c'entra questo con le pratiche sessuali, scusa? Come? Che c'entra questo con le pratiche sessuali? Ma perché la pratica sessuale nasce dal fatto che stia vicino a un qualcosa che ti attrae e di conseguenza cominci a toccarlo, a baciarlo o a leccarlo, e poi nasce anche il fatto del bersi l'urina reciprocamente, in caso eccezionale. Ma è raccapricciante, ma che famiglia è la sua? È una famiglia naturalista. Naturale, che segue la natura, che non usa farmaci né vaccini da decenni. Pervertito. I miei figli non sono vaccinati, i miei nipoti neppure, per cui cosa vieni a parlare? Per cui sicuramente non sono omosex, dunque, su questo... Beh, certo no. Beh, appunto, non essendo vaccinati. Ci avranno altri problemi, ci avranno. Se no, fanno mi bene... dispiace per te, il primo raffreddore lo hanno avuto a 18 anni quando hanno cominciato a fare i cazzi loro, sì. Cioè a mangiare un po' male, allora hanno avuto qualche volta qualche raffreddore, che passa immediatamente appena fanno le terapie adatte. Chiedo sempre con rispetto per capire cosa avviene nella sua famiglia, perché mi incuriosisce moltissimo. Non ho capito, quindi lei pratica questo 69 nel quale, durante il quale, diciamo, urina no, nella no, bocca. Io non lo pratico perché non mi interessa e non c'è bisogno. Ho detto semplicemente. Però è consigliato, lei lo consiglia. Cioè, leccarsi reciprocamente gli organi genitali. Sì, certo. Nella coppia. Ma dai. Allora, l'animale sì. Ma che porcheria. Ha utilizzato dagli albori della ma sua. Ma che porcaccione, dai. Nel, ma è normale. Sopra. Allora? Sei maleducato, parliamo separatamente, così almeno capiamo ciò che uno dice rispetto all'altro. Ma insomma, questa pratica sessuale? Allora, questa pratica sessuale è nata proprio da questo bersi a vicenda e siccome piace toccarsi o leccarsi o manipolarsi l'un l'altro, sì. È chiaro che poi è nato ed è diventato uno dei best seller del sesso. Scusami, tu consigli l'urinoterapia fatta così? No, non consiglio l'urinoterapia. Dico semplicemente che l'origine è molto probabile sia venuta così. Benissimo. Semplice. Sì, ma sì, qual è la stranezza? No, ma no, è Parenzo che ha i suoi tabù, le sue cose. Ma cioè. voi cristiani siete cristiani, in mezzo ai tabù spirituali che vi impediscono quello di ebreo. Comprendere le cose più semplici di questo mondo. Quello è ebreo, Parenzo. Ma anche tra gli ebrei io conosco molto bene i rabbini, quanto hanno incazzata e inquadrata la mente dei propri fedeli. Purtroppo le religioni sono l'oppio dei popoli. Vabbè, allora senti, continui a bere, a fisciare e a fare quello che le pare con sua moglie, ma non ci scassi la minchia a noi con queste stupidaggini, però. Tu intanto cerca di imparare l'educazione. E studiare un pochettino, esatto. Da cosa. Paolo, scusa un attimo, però oggi sei stato un po' Crimi ha detto prendo la distanza da il capogruppo al Senato dei 5 Stelle, prendo le distanze da questo Vanoli, non lo conosco. Ma io non ho mai parlato a nome del Movimento 5 Stelle. Ma infatti, siete voi che l'avete inserito. No, noi no, scusa, devo essere preciso. Quelli di quel sito libero. Hanno fatto un'intervista nella quale era chiaro, come ho chiarito con voi, chiaro. Che il Movimento 5 Stelle non però tu conosci Crimi? Io no. Non lo conosci? No, non ho mai incontrato. Allora, però diamo email perché mi ha chiesto la fotografia e da mettere sul meetup e basta. Però ti ha chiesto una fotografia da mettere sul meetup? Perché per poterci iscrivere sulle varie piattaforme bisogna essere. Però tu ti senti un grillino, pienamente un grillino. Ideologicamente sono anche un grillino, ma prima di essere un grillino sono un naturopata. Una persona che vive in armonia più possibile con la natura e di conseguenza voglio arrivare a morire di vecchiaia. Benissimo. E non come voi che purtroppo morirete con i vostri farmaci. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il becco su di me. Ai ai mi ha beccato, ai ai mi ha beccato, gratta gratta ma peggio è. Pure lo spray anti-zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me e balli su twist. L'accordo è che quelli tornano in India? Sì, sì. Ma questo si chiama accordo di Maria Cazzetta a casa mia. Ho capito, ma questo è il governo Monti, capito? Il governo perché Monti. C'è un Monti a posto suo, a posto di quelli in India? Perché si consegna lui? Ti ho beccato! Ma questi sono scemi davvero. Ma perché non gli arrestano tutti gli indiani che ci stanno in Italia? Ma no, tutti gli indiani in Italia. Ma come fate? Gli arrestassero un po' degli italiani che ci stanno in Italia. Questa però. Gli indiani che ci stanno in Italia. Quelli stanno nell'acqua internazionale. Ma aspetti, non mi rompete i coglioni. Ma facessero come gli pare. Ci andassero il ministro degli esteri, il ministro della difesa, ci andassero loro in India, no? In prigione? Andassero a far culo con gli pare. Non mi rompete, andare a far culo pure voi. Ma che mi importa a me? Più volte non lo vedi mai. Senti, questi mica stavano lì su quella nave. Perché sono andati in escursione privata per conto loro, no? Certo, per il governo. Cioè, sono andati per conto del governo italiano. Sì, sì. Quindi hanno eseguito gli ordini. Sì, sì. Il Monti ci vuole mandare qualcuno? Sì. E sono andato a fanculo lui in India, no? Ma che c'entrano i due marò? Una botta col bacio e poi all'altro. Una botta nel braccio e poi all'altro. Io sto lavorando, sto in chiusura del romanzo. non leggo giornali, non vendo, hai non ragione, vedo niente, sto con l'universo mio, io sto a scrivere, non mi rompete le palle a me, che vuoi? Ti ho inseguita. Era Antonio Pennacchi, il fascio comunista sui Marò in India, Monti che deve andare a fare in culo, andasse lui in India insieme al ministro degli esteri, eccetera eccetera. Abbiamo con noi 800 24 00 24 il mitologico Giampaolo Vanoli, ormai diventato un mito per gli ascoltatori della Zanzara, naturopata, grande cultore dell'urinoterapia, che poi in sostanza, Parenzo, no, significa bere la pipì per guarire. No, ma non dire, non dire. Non dargli tutta questa valenza, la gente poi pensa davvero. No, no, che, no, ma io che per me è diventato un punto di riferimento assoluto, voglio assolutamente approfondire tutte le cose che dice. Cioè, a partire... per te un bevitore di urina è un punto di riferimento. No, no, un punto di... possiamo fare un prosit assieme. Beh, un prosit assieme, questo francamente mi sembra un po' eccessivo. Scusi, ma io voglio, se volessi iniziare. Io, anche facendo dei gargarismi, mi dia un consiglio, guarda, Vanoli, dammi, mi dia un consiglio. Dammi del tuo. Sì, scusami, Paolo. Scusami. No, a lui non devi dare del tuo. Apparenzo, ormai. Apparenzo non devi dare del tuo, eh. No, ora, no, non... ora dico una cosa, io dico una cosa. Ma meno male. Se io volessi iniziare questa pratica, cosa dovrei fare? Dammi un consiglio, Paolo. Allora, un consiglio: puoi provare al mattino la seconda o la terza pipì. Sì? Te la metti due dita nel bicchiere dell'acqua e ti annacqui con un po' d'acqua e cominci a berti. Sì. Poi dopo aumenti la dose fino a quando la utilizzi così come ma una volta al giorno? Una volta al giorno? Ma basta una volta al giorno. Per, al quanti, per quanto tempo? Per quanto tempo? Per vedere i buoni effetti almeno un 15 giorni. E dopo che succede? Dopo 15 giorni di cosa? Beh, mi accorgo? Ti senti diverso, meglio. Meglio, eh? Sì. Mi sento anche meglio. Perché contiene anche sali minerali. Per esempio, per, esempio, certo, per chi corre e fa l'atleta, è buona questa cosa? Sì, certo. Molto buona, eh? Parenzo, capito? Lei invece volevo parlare di cose più interessanti. Sì, ma al meetup di Grillo di Segrate, di cui lei è il referente, no, sanitario. No, non sono il referente, come te lo devo dire. E che cos'è? Semplicemente un iscritto? Consulente iscritto che collabora e fornisce delle informazioni. Un grillino a tutti gli effetti, però. Un grillino. Fino adesso. Fino adesso, adesso fra poco la cacceranno pure. Ma non lo so, adesso vedremo. Vabbè, ma che a lei anche che io... perché come io divido in questa atmosfera, sì, in questa trasmissione, due persone, uno sei tu, uno è l'altro, e così succede in ogni luogo dove io comincio a parlare di queste cose, perché sono troppo avanti rispetto alla comune società. Assolutamente. Che cos'è che volevi spiegare, scusa? Volevo spiegare il significato della parola cazzo. Ma scusa, però abbi pazienza, lo sappiamo tutti, che c'entra con l'urinoterapia? No, e c'entra molto, perché l'urina esce dal pene o dalla vagina, e allora? Per cui bisogna anche spiegare il significato. Sì. Ogni corpo, sì, ha uno suo simbolismo di ordine, sì, spirituale, cioè, dimmi, informazionale, sì, ben preciso. La parola cazzo è una parola composta da due radici, cazza, sì, che significa semplicemente ca, penetrare, sì, è la forza penetrante, non c'è dubbio, e za è la durezza dello zain. Visto che abbiamo un ebreo, se non, sì, ricordo ebreissimo, male, sì, sì, dovrebbe sapere cosa significa la parola zain. Che vuol dire zain? Non lo sai, Parenzo? Davide, sveglia! Sveglia, su, che cosa sveglia, vuol dire? Ragazzo. La parola zain, che vuol dire? In ebraico. Ma vuol dire pene, ma questo è stupido. E allora, l'etimo... Vabbè, allora arriviamo alla conclusione, Paolo. È l'insieme di queste due radici, sì, etimologicamente, sì, parlando, formano la parola cazzo, che allora? Da noi... è diventata cazzo maschile invece. Vabbè, ma mettela sempre in bocca finale. Però ma la smetta, ma scusi, ma con l'urinoterapia che vuol dire, ma questo, dai, che c'entra? C'entra, come, perché? Perché l'urinoterapia è praticamente ha accesso o per eliminazione, sì, da un rubinetto che si chiama cazzo o pene. Bene, Paolo, grazie, un abbraccio, a presto. Guarda che c'è una cosa molto importante. Cos'è? La simbologia dell'orgasmo e dell'entrare e uscire dalla vagina. Beh, è però tutto un significato etimologico sacro. La prossima volta. Da penetrare. Un abbraccio, ciao. Ciao, ciao. Danzano come zanzare. Però il consiglio sulla dose quotidiana non è male, Parenzo. Ma questo comunque, guarda, mi dispiace perché Antonio da Salerno, fammi sentire gli ascoltatori che questa sera, sì, andiamo di fretta. Antonio da Salerno. È buonasera. Una famiglia Dica. Incredibile, guarda. Sì, buonasera, senta. Io premetto che sono stato un elettore del Movimento 5 Stelle, no? Sì, sì. E quindi adesso abbiamo visto che il nostro Napolitano ha dato l'incarico al temerario Bersani, chiamiamolo temerario. voglio fare un attimo il punto della situazione, nel senso che il punto della situazione, che vuol dire il punto della situazione? Ha detto che mai un governo col PDS, il Movimento 5 Stelle ha detto che mai fiducia a Bersani. Sì. Quindi non vorrei che adesso in un modo o nell'altro ci sia qualche ingiuglio. E visto che parlo tanto di responsabilità, ma sarebbero da irresponsabili tradire il motivo che alla fine ha portato noi a votare. Cioè, secondo lei Grillo si dovrebbe, lei da elettore di Grillo dice Grillo dovrebbe allearsi col Partito Democratico? No, assolutamente. E allora? Cioè, io personalmente l'ho votato appunto per fare un po' di pulizia di questa. E allora? E che devono fare allora, secondo lei? Non devono dare fiducia a Bersani, in modo di andare un'altra volta al voto e quello. Beh, grazie Aldo dalla provincia di Sondrio. Buonasera Aldo. Buonasera, mi sente Cruciani? Vada. Pronto? Sì, dica. Sì, senta. No, io volevo dire una cosa sul Movimento 5 Stelle, ma sì. Guarda che io sono d'accordo con Alberto Forchielli, che sì. Stamattina ha detto che Grillo è uno sbarellato totale. Ma io capisco che ci siano certi problemi che il Movimento 5 Stelle mette in evidenza e sono giustissimi, la tutela dell'ambiente sì. e tante altre cose. Però questi non sanno cosa sia la democrazia, sono di un'aggressività preoccupante. Bravo. Li vedevo anche ieri sera presa diretta alcuni parlamentari. Noi aggressività. Vogliamo, noi pretendiamo. Guardi, più che altro questi deputati e senatori ogni tanto dicono delle stronzate pazzesche. Per esempio c'è uno che si chiama Michele Giarrusso, che è un senatore del 5 Stelle che ha votato per Grasso, sì. Il quale ha pubblicato su Facebook una foto di Francesco Boccia e Nunzia De Girolamo. Pazzesco, infatti, questo modo, volevo dirti. No, ma una roba incredibile. Cioè... ha scoperto improvvisamente che ci sono due deputati, uno del PD e uno del PDL, che sono sposati. Ma grande novità. Dire che parla di inciuccio. Sì, parla di inciuccio. Scrive, mette le due foto, Boccia De Girolamo, come se fosse una grande novità. Lei deputata PDL, lui deputato PD, niente di strano, ma siccome siamo in Italia, i due sono anche marito e moglie. Incredibile, vero? Ogni giorno di più, credo a quello che dice Beppe Grillo. PDL e PD-L, domani arriverà l'ennesima conferma, scommettiamo. Ma sei un ignorante, Giarrusso! Dovresti essere cacciato dal 5 Stelle per questo, no? Perché hai votato Grasso, dovresti essere cacciato a pedate nel sedere, perché pensi che il matrimonio, il fatto che Boccia e De Girolamo stanno insieme, significa inciucio. Sei ignorante, vai preso a calci nel sedere. Dunque cancella quella roba che non vuol dire nulla, perché è una roba vecchia, non sai niente. Diciamo, ma cosa no. Ti stai stupendo? No, niente, io mi sto attaccando Giarrusso per quello che ha fatto. Ma perché ti stupisce? Gente che hai votato tu! Ma che c'entra? Non c'entra nulla, Aldo. Allora, che voleva dire? Che hai votato tu questa. Ma ce ne sono così anche negli altri partiti, dai, ma, su. Ma che tu sei matto, che c'è un signore che beve il piscio, secondo te? Ma che secondo te secondo te anche nel PDL, persino nel PDL, secondo te c'è Cicchi? Io di Cicchito si può dire tutto, ma sicuramente non beve il piscio Cicchito, sicuro! Vabbè, ma quello mica è un deputato, scusa. Basta! Non ne posso più di questi del 5 Stelle, non ne posso più. Anche Verdini, tutto può aver fatto qualunque cosa al mondo, Verdini, il credito cooperativo, e la Banca di Toscana, e il giornale, e le inchieste, e la cricca, ma no, Verdini non beve piscio, hai capito? Ho capito, basta. Ma questo qua, Banoli, non è un deputato. Non ne posso più di questi, non ne posso più. Verdini è una brava persona a confronto. Meglio Verdini, basta. Ma meglio Verdini di chi? Ma di questo che beve il piscio e il 69 e mia moglie gli fa bere quelle robe alla moglie. Meglio Verdini, guarda cosa arrivo a dire purtroppo. Ma sto male dicendolo. Aldo, allora... Non c'è da ridere, sto male veramente, basta! Ma questo non è un deputato, abbia pazienza. Ma è non un, mi interessa, è un militante. Non mi interessa, sto male. Marco dalla provincia di Lecce, buonasera, basta. Marco. Sì, buonasera, dottor Cruciani. Vada. Guarda, sei sbagliato per attaccare il Movimento 5 Stelle con queste interviste, perché alla fine mediaticamente è un attacco anche se non si fa con ingenuità. Perché se fate passare il pazzo di turno che lo possiamo trovare in qualsiasi gruppo umano, che siamo con il Movimento 5 Stelle? Stiamo attaccando il Movimento 5 Stelle, questa è una strategia di attacco. Ma che strategia? Può... Guardi, si attaccano da soli quelli del 5 Stelle ogni tanto. Questo deputato che pubblica la foto di Boccia e De Girolamo che stanno insieme per dire che c'è l'inciucio, su, si attaccano da soli. Poi quello là è un militante che dice la sua sulla famosa urinoterapia, è stato già preso in giro oggi da Libero e da altri giornali. Ma insomma, non è un deputato. Crimi dice che gli è stata estorta un'intervista mentre sapeva benissimo di essere registrato. Sul blog di Grillo si attacca. Attaccano questi ragazzi della Luis che si sono presentati in maniera normale e hanno chiaramente registrato davanti a Crimi consenziente e sapeva esattamente quello che stava accadendo. Si fanno male da soli. Ma è con noi l'unico omosessuale dichiarato al Senato, è un senatore del Partito Democratico. Ci sono 4 gay, caro Parenzo, in Parlamento, almeno quelli che hanno fatto coming out, sì, che è un passo in più rispetto all'altra legislatura dove ce n'era solo una, diciamo, che aveva fatto coming out, non ne vuole concia. Sergio Lo Giudice, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, ne conto 3 mica, che è il quarto. Come 3? Sono 3 o 4? Erano 4 con Vendola, ma Vendola... Ah, io contavo Vendola, io per adesso sì, conto Vendola, finché non si dimette da deputato, cosa che peraltro dovrebbe fare anche abbastanza velocemente, secondo me, perché non è che si può tenere deputato e poi anche presidente della Regione Puglia. No, beh, certo. Comunque, voglia farlo. No, assolutamente. Se, innanzitutto, mi faccia capire una cosa, ma secondo lei il fatto che, per esempio, al Senato, no, c'è sempre una percentuale fissa in tutte le comunità, ci sia una sola persona dichiaratamente omosessuale come lei, Lo Giudice, che è stato presidente storico e emerito, anche oggi, no, emerito, come si dice, presidente onorario dell'Arcigay, sì, è stato anche presidente dell'Arcigay nel passato, non è una stranezza, cioè ci saranno sicuramente più omosessuali al Senato, come in ogni comunità umana. Beh sì, però come nel resto del paese la percentuale degli omosessuali dichiarati è molto molto inferiore a quella reale. Ognuno di noi conosce alcuni omosessuali, ma in realtà ne conosce molti di più e non sospetta neanche che siano gay o lesbiche. Anche in questo il Parlamento è lo specchio del paese. E dunque, secondo lei, al Senato, anche oggi, a parte che forse ce n'è uno, come si dice, no? Tra i senatori a vita, si è sempre detto, no? Forse... Forse si è sempre detto, là siamo sempre nel campo della... Dunque, nel Senato attuale lei sicuramente non è solo. No, sicuramente no, però io poi rispetto anche per chi non lo dice. Decisione di ognuno dirlo o non dirlo in un paese in cui dirlo spesso è anche rischia di essere faticoso, anche se poi io sostengo che è molto più faticoso non dirlo, perché se lo dici alla fine ti guadagni il rispetto di chi hai attorno. Se non lo dici, vivi sempre in una situazione di segretezza, ma anche di debolezza. Ma bisogna dirlo o non bisogna dirlo allora? Bisogna dirlo, assolutamente. Bisogna dirlo, anzi, approfitto della sua trasmissione per fare un appello a tutti i ragazzi e le ragazze italiane. Ditelo perché sarete più felici. Beh, e anche ai parlamentari, ai suoi colleghi allora? No, io adesso, allora, anche i parlamentari sono adulti e vaccinati, lo decideranno da soli senza sentire. Beh, cioè, ascoltare il mio appello. No, certo, però se lei si rivolge, allora, adesso, in questo momento, compreso Vendolo, ci sono 4 omosessuali in Parlamento, è già un passo in più rispetto all'altra volta che era solo uno, no? Che era l'onorevole Concia. Allora, bisogna dire, siccome è molto probabile, come dice lei, che ci saranno sicuramente più omosessuali in Parlamento rispetto ai 4 che sono dichiarati, beh, dichiaratevi, no? Il coming out fa bene alla salute, o sbaglio? Appunto. Beh, fa bene alla salute, il rispetto dei diritti dei gay fa bene alla salute. Ci sono teorie molto importanti mediche che dicono che chi vive una situazione di stigmatizzazione in quanto fa parte di una minoranza vive il cosiddetto minority stress, cioè dire una situazione di stress psicologico che può anche provocare malessere fisico legato al fatto di sentirsi non a suo agio nella società. Per cui, cari deputati e senatori, diciamolo, senatore o giudice, cari senatori e deputati, sicuramente ci siete e non lo volete dire fino in fondo. Ditelo, è il momento giusto, stiamo facendo passi avanti, piccoli passi avanti. Confessate, sembra brutto, non bisogna confessare ma nulla. No, confessare, si semplicemente di dire quel che sia. Ma ci sarebbe anche un altro motivo per cui sarebbe bene che tutti... Non solo i deputati, ma insomma tutte le persone che hanno un ruolo, che hanno una disabilità, che sono persone importanti nella società, attori, sportivi, eccetera. C'è un altro motivo più importante perché sarebbe bene che lo dicessero, ed è che tante persone non lo dicono perché hanno paura di essere gli unici al mondo, perché non hanno modelli positivi di riferimento. Se tutte le rockstar, le popstar, gli sportivi, i parlamentari, i politici omosessuali lo dicessero, bene, renderebbero la vita più facile a tanta gente. Per esempio nel calcio, nel calcio là c'è un tabù pazzesco. Cioè, lì ci sono veramente dei tabù molto grossi, del fatto che per l'appunto c'è una situazione. Ma secondo lei tra i calciatori di Serie A, tra i giocatori di Serie A, cioè, si può fare una percentuale? Ci sarà almeno, che ne so, il 5%, il 10%? Lei che è esperto di queste cose, essendo stato presidente dell'Arcigay, avrà tutti i dati in mano, più o meno, delle statistiche ufficiali. Guarda, dico questo, una percentuale di media della popolazione, diciamo al ribasso, media rispetto a tutte le varie, sì, le varie studi. Infatti nel mondo dice il 5%, cioè 1 su 20. Faccia dei conti, 1 su 20 in una squadra di calcio, compreso qualche riserva, ce n'è uno. C'è e uno. Questo accade in ogni contesto. Uno pensa che l'omosessuale sia una persona effeminata, facilmente riconoscibile, no, non è così. Chi l'ha detto? Lei, per esempio, l'ho visto parlare in varie occasioni, tutto mi sembra tranne che effeminato, così mi sembra. Di adesso non è che sia proprio Silvestre Stallone, insomma, però... Ancora... Questo non è male. A me piacciono le persone che sanno scherzare anche su queste cose, perché, per carità, lei sa benissimo che la Zanzara è la trasmissione che fa del matrimonio gay e persino dell'adozione una sorta di bandiera assoluta. Bene, bravi. Per cui non è questo il problema, però bisogna anche saper scherzare su alcune cose, sì. Non bisogna essere troppo. Lei dice... Ma con un gay sono a porta aperta, perché i gay sono abituati da sempre a fare una grandissima ironia su loro stessi, e quando la fanno gli altri in modo malevolo, che non ci piace. Ma la parola froce è brutto, si può usare? Io sono stato autorizzato a utilizzare la parola froce nel passato. Ma dipende. E fra di loro la usano spesso, per esempio. Cioè lei utilizza, lei dice, come la utilizza la parola froce? Come tutte le parole, se è detta con tono bonario si può utilizzare, ma spesso è detta in tono non bonario. Quando a scuola o in qualunque altro contesto si dà del frocio, beh, certo, frocio, detto così, sta facendo una grande offesa a chi accanto è omosessuale, non lo sa, non, tu non lo sai, lui non lo dice. Cioè lei al suo compagno con cui si è sposato, adesso te lo diremo, con cui ma si è sposato, no, Oslo, non no, è che no, dice frocia, non la chiama frocia, no, così, no. No, non proprio, non è così, no. Non è così. Le posso fare una domanda privata, un po' così? Ma esistono, dipende quanto privata. Esistono dei ruoli nel vostro matrimonio? Ma ammazza quanto è privata. Lo so, che vuole fare? Nel tema generale c'è una macchietta, diciamo, un giudizio per cui si pensa che una coppia omosessuale uno faccia il maschio e l'altra non faccia è vero, la femmina. Tu è una minchiata. Non è così. È una minchiata. Uso la parola minchiata perché lei è siciliano di origine. E di Messina ancora si sente. Parenzo, che c'è? Che vuoi? Io faccio sempre queste domande qua. Sì, mi piace fare queste domande. Adesso parleremo invece di una cosa molto importante. No, lo capisco. Io volevo dirti questo, che ascoltando l'amico intanto... Innanzitutto Crimi ha ribadito, tanto per tornare alla politica, quella sull'incarico, sì, eccetera, Crimi ha ribadito nessuna fiducia a Bersani. Ora, sulla base del fatto che Crimi dice questo, mi sembra che l'unica possibilità sia quella della Lega e Monti, che insieme votano Bersani anche al Senato, ma lì si avrebbe la maggioranza di due, tre senatori. Una cosa del genere. Una cosa complicata. Se la gioca in aula. Ma che non può andare in aula allo sbaraglio? Ma di che no, parliamo? Ma intanto era ovvio, un passaggio obbligato, se la gioca, poi dopo Napolitano vedrà. Però la roba più interessante che segnalano i radioascoltatori. Dimmi. Non so se sia lui oppure un fake, come si dice tecnicamente. Sì, dimmi. Sto seguendo su Twitter Robert Casaleggio, che è chiocciola. No, Robert... ma è un meraviglioso fake. Tra l'altro alcuni dicono più intelligente dello stesso Casaleggio, comunque ecco, più brillante di Casaleggio. Stanco como una muchachita, baila con ritmo bueno, no le importa mucho si no prendo sueno, no le importa. Mi faccia sapere pure il luogo, il giorno della settimana e cose, lui vedrà. La trasmissione non c'è nemmeno qualcuno che potesse magari così poter replicare. Passano, non si può piacere a tutti, lei ha già dalla sua parte tutte le televisioni e tutti i giornali, permetterà che ci sia almeno uno che la critica, uno! Non sono così, abbia pazienza, a tutti i critichi lo potrà anche accettare, abbia pazienza. La musica non è la seconda carica dello Stato, anche se forse non se ne è ancora reso conto. Teneva botta anche Grasso, bisogna dire la verità, teneva botta, anche se poi per telefono lì travagliava tutta la possibilità per gigioneggiare, poi messo al confronto sulle carte, bisogna vedere. Grasso non dovrebbe farlo, come dico io, nella maniera più assoluta non dovrebbe farlo, non dovrebbe farlo, sarebbe un errore clamoroso. No, bisogna dire qualcosa pure su Bersani, cioè come si fa, io dico, a essere così, secondo me a essere così cocciuti, cioè dopo che il 5 Stelle ti ha detto di no. Ora voglio dire, se è uscito fuori qualcosa da queste elezioni, è una sconfitta politica dell'attuale segretario del Partito Democratico. Cioè, vabbè, lasciamo perdere. No, ma scusami, ma lui ha ragione però. Ma su che cosa ha ragione? Spiegami. Lui è il primo partito. Ho capito, ma Bersani è uscito politicamente sconfitto dalle elezioni. È uscito politicamente sconfitto. il tuo amore per i 5 Stelle, questa nuova terapia che hai cominciato bevendoti la mattina la tua urina, forse ti ha un po' obnubilato, ti farà stare benissimo, ma ti ha forse un po' obnubilato il cervello tu con i tuoi amici 5 Stelle. Allora, quali sono gli sconfitti di queste elezioni? Il primo è Bersani, lo hanno detto tutti sin dall'inizio, ed è Bersani che prende l'incarico di formare il governo. Dai, su. Che comunque, avendo lui tecnicamente, essendo lui tecnicamente. Va bene. Adesso non discutiamo di Napolitano, lo sai chi incontra per primi le parti sociali? Ma che vuol dire le parti sociali? Perché devi incontrare le parti sociali per prime? Che ma vuol puoi dire? Incontrare chi gli pare, ma meglio che incontri le parti sociali piuttosto che quel Vanoli, hai capito? È con noi il senatore Sergio Lo Giudice, esponente della comunità omosessuale LGBT, Partito Democratico, eletto per la prima volta al Senato. A proposito, Lo Giudice, ma questi grillini nel passato hanno dimostrato anche un po' di omofobia. Lei è della zona di Bologna, dove la culla del grillismo, si può dire. Qualcuno dice che insomma lo stesso Grillo sia un po' omofobo, no? Guardi, i grillini hanno avuto una serie di, in particolare Grillo, ha avuto una serie di atteggiamenti e di sparate omofobe. Va detto però che su questo tema in realtà molti di loro, perlomeno, perché poi si fa fatica a generalizzare su quello che non è scritto in modo specifico sul loro programma, e sul loro programma non c'è mezza parola. Non c'è mezza parola, sì, è vero. Non c'è però molti di loro hanno già detto di essere a favore dei matrimoni gay, quindi io mi farà piacere anche in Senato riuscire a collaborare con quei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno dato il sostegno a una richiesta dell'Arcigay di in merito appunto a vari punti, fra cui l'estensione del matrimonio civile alle coppie. Beh, Grillo disse una volta che l'AIDS è una balla, se lo ricorda, sì. Ecco. No, ma quello non è che l'ha detto una volta, l'ha detto Grillo tanti anni fa, ma soprattutto l'ha ripetuto, questo mi sembra una cosa molto grave, l'ha ripetuto un signore l'anno scorso, quindi pochi mesi fa, e questo signore che poi è messo ora è diventato adesso portavoce dei portavoce, coordinatore della comunicazione dei senatori a 5 Stelle. Quindi su quello io ho già chiesto a Messora di chiarire la sua posizione, non l'ha fatto. Utilizzo questa occasione per chiedere ai miei colleghi senatori del Movimento 5 Stelle di prendere le distanze, perché dire che l'AIDS non è provocato dal virus dell'HIV non è solamente una balla colossale dal punto di vista scientifico, ma è una informazione devastante che si dà soprattutto a quei ragazzi e a quelle ragazze che oramai in Italia non fanno sesso protetto, perché non arriva più nessuna informazione sull'uso del preservativo, su un sesso più sicuro, e poi vanno sul blog di Grillo di Messora e leggono scritto che basta fare delle belle passeggiate o fare cioè lei sta dicendo che Messora a salutare la dieta non se lo prende nessuno, istiga alla cioè sono parole pericolose perché potrebbero far diffondere l'AIDS, lei dice. Assolutamente sì, perché tutto quello che fa abbassare l'attenzione rispetto alla necessità di fare sesso protetto rischia di aumentare. Senta, ma perché lei vuole fare questa battaglia per far riconoscere l'assistenza sanitaria anche a suo marito? Lei lo chiama marito il suo compagno? No, io non è che lo chiamo marito, io mi sono sposato con lui a Oslo nell'agosto del 2011, io e Michele siamo quindi coniugi per la gran parte dei paesi europei, anche se ad oggi il nostro matrimonio non è ancora riconosciuto in Italia. Ecco, ma lei vuole che l'assistenza sanitaria dei senatori sia estesa anche a suo marito, al suo compagno, quello che è? Sì, o perlomeno io voglio che tutte le norme, tutte le cioè lei le è una battaglia di principio, non facciano discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale. A lei non gliene frega niente in realtà di questi dei soldi, diciamo, dell'assistenza. No, guardi, mio marito Michele fa l'avvocato e ha una copertura sanitaria ottima di suo. Il punto è il principio, che non è possibile che il Parlamento italiano dia la copertura sanitaria. È vero che si tratta di un'assicurazione privata, ma insomma, tramite questa assicurazione il Parlamento dia la copertura sanitaria alle famiglie, diciamo, tradizionali, alla convivente di caso di fatto, alla compagna di un altro, di un deputato, ce ne sono tanti, non voglio fare nomi, e non al compagno, e non al Parlamento di sesso diverso, e non lo estenda anche a una coppia dello stesso sesso. Senti, lo sai che cosa mi viene da domandare, Parenzo, al senatore Lo Giudice? possibile che tra 163 deputati grillini ancora nessuno abbia fatto coming out da questo punto di vista? Questa è una bella domanda, questa è una bella, non si ha notizia di nessun grillino gay. Io voglio sperare che non sia, perché al loro interno c'è un ambiente repressivo e non accogliente. Voglio sperare che, insomma, fra questi 160, ecco, se facciamo quell'acconto del 5%, insomma, il conto è presto fatto. Appunto, dico, lo dica lei, che è stato, insomma, che da questo punto di vista ha una certa autorità. Insomma, venite fuori, perché tra 163 sicuramente qualcuno ci sarà, a meno che l'autorità non ce l'ho. Io posso solamente dire anche a loro quello che dicevo prima, sulla base della mia esperienza. Ditelo e sarete più sereni e sarete più felici. Scusi un attimo, però lei dice può esserci un ambiente repressivo. Che vuol dire un ambiente? Vuol dire che se c'è nel nostro paese una percentuale enorme di gay e lesbiche che rimane ancora nascosto, è perché nell'ambiente in cui vivono, la famiglia, no, ma quello grillino, lei dice quello grillino è repressivo, anche se tutti quanti poi dicono io ho tanti amici gay, io non ho niente contro i gay, poi in realtà una persona capisce da sé che non sarebbe gradito che lui venisse come gay. Tra i grillini, nella maggior parte degli ambienti di questo paese, sì, ma tra i grillini, secondo lei, nell'ambiente grillino un gay sarebbe poco gradito? Ma guarda, l'ambiente grillino in verità è, come dire, un quacerbo di realtà, di tante cose, molto diverse. Io stesso ne conosco diversi a Bologna gay, sono, come dire, no, ragazzi che su questo tema notizia, non hanno problemi, però c'è veramente di tutto. O se sono sentite a partire dal vostro ospite di prima, ma non solo, sono sentite tante affermazioni, no, quello molto, di prima, quello di prima, 5 Stelle. Nell'ambiente 5 Stelle sono sentite molte affermazioni pesanti, no, però devo dirvi una roba. Dimmi. Perché mi sta scrivendo e mi ha anche telefonato sotto, poi ti do il numero nella pausa pubblicitaria, sì, un esponente del Movimento 5 Stelle di Parma, penso di poter dire anche il nome perché mi sta chiamando. Mica sono dei monaci, no, reclusi, no, dentro. Penso di poter, cioè voglio dire, un messaggio, siccome però per loro tutto in rete, mi ha mandato un messaggio, quindi io lo dico pubblicamente. Cosa ha detto? Si chiama Matteo Incerti del Movimento 5 Stelle. No, Matteo Incerti Parma è lo stesso, forse, che tu adesso non sai niente. Perché non sai niente? Matteo Incerti, Matteo Incerti è quello che ha scritto sul sito di Grillo una roba che ha, come dire, a me non me ne frega niente, poi figuriamoci, anche su di noi, che è praticamente un esempio di falsificazione totale. Questa volta lo posso dire con certezza, perché so come sono andate le cose, hai capito? Ti sto dicendo che mi sta chiamando in diretta mentre sono con te collegato e mi ha scritto questo messaggio, poi gli do il suo cellulare così se vuoi lo mandiamo in diretta. Mi ha scritto questo, aspetta che giro la cornetta e te lo leggo. Dimmi, avanti, dimmi, in diretta, tutto in diretta, fatti, tutto in diretta. Intanto beviti un bicchiere di urina mentre ti leggo Adesso inizierò fra qualche giorno. Inizierò fra qualche giorno. Allora, mi scrive in Matteo Incerti. Sì, sì. Grillo è a favore dei matrimoni gay, basta balle. E idem Movimento 5 Stelle. Cercate sul sito e finitela di raccontare balle. No, io non finiamo Matteo di raccontare nessuna balla. Il senatore Lo Giudice ha detto che nel programma di Grillo non c'è una parola, nei 10 punti anche che sono stati elencati l'altro giorno, credo che Lo Giudice si riferisse a quello, e non solo a quello, non c'è una parola sulla questione delle unioni civili. Poi può darsi pure che l'abbia detto in tante altre occasioni. Non è che adesso abbiamo qui... No, ma l'ha detto, Grillo l'ha detto. Ma non è che stiamo dicendo che è omofobo. Non c'è una parola nel programma. Dopodiché Grillo ha detto che lui è a favore e tanti, torno a dire, tanti anche eletti del Movimento 5 Stelle si sono dichiarati espressamente a favore dei matrimoni gay. Questa è una cosa che va detta, che mi fa piacere, così come se io dico che ci sono tanti omofobi nel Movimento 5 Stelle non voglio tacere che ci sono tanti omofobi anche nel resto dei partiti. Ma certo, ma adesso parleremo anche di omofobi del Partito Democratico, Lo Giudice, che non mancano, mi sembra, no? Ma insomma, diciamo che una volta ce n'erano un po' di più, ecco, adesso capo, un po' la cultura politica del partito è cresciuta. Sì, quello che più è stato un vostro nemico da questo punto di vista, chi è? D'Alema? No, non nostro nemico veramente, sono stati quel gruppetto di Teodem che erano dentro il Partito Democratico dalla sua nascita. Adesso chi è? Finetti. Adesso chi c'è? La Bindi è la prima. Ma adesso la Bindi, diciamo che la Bindi ha, non è certo la Binetti, però la Bindi ha un, come dire, una limitazione, un limite invalicabile rispetto ai diritti delle persone omosessuali, che dovrebbe riuscire a valicare se vuole stare all'altezza dei tempi. Allora facciamo il podio degli omofobi del PD. No, guarda, gli omofobi del PD oggi non ci sono più, perché il PD ha presentato una proposta. Vabbè, quelli che si oppongono come voi, no, lasciamo perdere adesso i progetti di legge, sennò ci dilunghiamo troppo. Ma quelli che si oppongono, cioè che sono un po' considerati i vostri nemici storici, che attualmente sono nel PD, chi c'è? La Bindi sicuramente. Ma Guarda, oggi non è che ci siano bimbi fioroni, bimbi fioroni. È chiaro che c'è un'area, una fascia di persone che tengono a ridurre al minimo la possibilità di riconoscere la piena uguaglianza delle persone. Beh, lei per esempio D'Alema una volta aveva detto che era parte del problema, è una parte del problema sul perché non si erano fatti. D'Alema ha affermato che non bisognava riconoscere il matrimonio alle coppie dello stesso sesso. Esatto, dunque sì. D'Alema è, diciamo, è uno dei vostri storici oppositori, si può dire o no? Guardi, il punto è questo, che ma lei per ottenere il matrimonio gay che cosa sarebbe disposto a fare? Che il riconoscimento dei diritti civili delle persone possa essere considerato così come, non so, il riconoscimento salariale di un contratto di collaborazione, cioè dire contrattabile fra le parti. Quando si parla di principio di uguaglianza c'è poco da contrattare, o sono uguale a te o non sono uguale a te. Io chiedo che si facciano delle leggi che dicano che gay e lesbiche in questo paese sono uguali e si modificano quelle leggi che dicono che sono disuguali a partire dalla legge. Senta, ma invece il principe degli omofobi gay, secondo lei, in Italia oggi, attualmente, tra i politici, il principe in assoluto? Ma ce ne sono tanti tra i politici, non so, mi viene in mente per esempio un Giovanardi, che è uno di quelli che le spara veramente grossissimo. Il principe in assoluto è Giovanardi, anche Scilipoti non è male, Beh sì, ma Scilipoti, come dire, è un omofobo più occasionale, mentre Giovanardi è un omofobo seriale, ecco. Senta, ma lei che cosa fare, un'ultima domanda, cosa è disposto a fare pur di ottenere il matrimonio gay? A tutti incatenarsi davanti alla Camera? È la prima proposta che presenterà, quella sul matrimonio? Guarda, io l'ho già depositata questa proposta, anche se ancora non vi do questa anticipazione. Ma cosa è disposto a fare? Anche se ancora non l'ho resa pubblica perché sto raccogliendo un po' di firme. Guarda, incatenarsi, io se servisse mi incatenerei, ma non credo che serva a niente. Quello che voglio fare è cercare di convincere il numero maggiore di persone a fare il matrimonio, in Europa, bisogna starci anche riducendo lo spread dei diritti. E se tutti i paesi europei, anche quelli che ancora non ci sono arrivati, come la Francia e la Gran Bretagna, stanno per arrivarci al matrimonio, all'estensione del matrimonio civile, bisogna che ci arrivi presto anche l'Italia. Allora, ci sono molti grillini che ci hanno mandato affermazioni, post, eccetera, di Beppe Grillo sulle unioni civili. Aspetta, che mi ha... Che c'è? Mi ha riscritto Matteo Incertal, Matteo Incerti. Sì. E aspetta che prendo il telefono. Il quale dice: grazie per aver letto il messaggio. Aggiungo che a Parma, Reggio Emilia, approvato registro unioni civili con voto e proposta Movimento 5 Stelle. In Sicilia e Lombardia altre iniziative. Buon lavoro. Benissimo, siamo contentissimi. Però dico anche al signor Matteo Incerti, si informi meglio invece sulla vicenda dei giovani universitari che hanno fatto l'intervista a Crimi. Adesso li sentiremo. Poi se vuole intervenire può intervenire tranquillamente. Giuliano da Vicenza, 800 24 00 24. Giuliano. Sì, ciao Crociani. Vada. Volevo porre un business. Un business, sì. Sì, perché non ci facciamo dei bei ghiaccioli con l'urina di quella cosa lì, Giovanoni? Ma li farà lei i ghiaccioli? Io al massimo posso iniziare come mi ha come consigliato dal professore emerito Vanoli, posso iniziare così, a provare significa fare l'urinoterapia. Guarda, un bel ghiacciolo ogni mattina. Sì. Toglie. Beh, adesso il ghiacciolo. Il senso di libertà. Sì, beh, il ghiacciolo di urina, adesso, francamente, insomma, mi sembra un po' eccessivo, insomma, caro Giuliano. No, guarda che non è eccessivo. No, non è eccessivo. Vabbè. Non è eccessivo, perché si digerisce bene poi. E poi un'altra cosa. Lei vuole fare addirittura un business, Giuliano? Cosa? Vuole fare addirittura un business? Ma secondo me si potrebbero anche vendere, sai. Beh, vendere addirittura, su, dai. Ma noi facciamo un bel intruglio, mettiamo un po' di pipì di Monti, un po' di pipì di Bersani, un po' di pipì di Berlusconi. No, quello è un po' di più perché quella è anche, come si dice, attrezzata, è un'esperienza. Ma un po' di pipì di tutti e ci li sbattiamo lì. Ma dove? Il ghiacciolo per tutte le stagioni. Vabbè, Giuliano. Alessandro dalla provincia di Milano. Buonasera Cruciani, buonasera dica, a tutti. Dica. Io sono un concittadino del signor Vanoli e giuro non ho mai bevuto urina. Volevo dire questo, a parte la fase folcloristica del cosiddetto dottor Vanoli, purtroppo ahimè si apre una questione un po' fondamentale all'interno del Movimento 5 Stelle, cioè che veramente entrano cani e porci. Io ci sono entrato a Segrate insieme a tantissimi altri giovani che ci riteniamo molto per bene. Ma l'ha mai sentito? L'ha mai sentito questo dottor Vanoli? Sì, sì, come no, l'abbiamo attaccato, e volevo dire proprio questo, che a parte che bastava digitare, i grillini dovrebbero essere cittadini attivi, bastava digitare in Google, come spesso dice Beppe Grillo, chi è il dottor Vanoli, e oltre all'urinoterapia trova anche quel macchinario attraverso il quale lui si smaterializza, va in un'altra dimensione dove si arricchisce, poi torna qua perché dobbiamo combattere non ricordo chi, che arrivano da altri pianeti, ma io e lei non lo sappiamo, Cruciani. Che ma cos'è questa teoria, scusi? Che cos'è questa teoria? Un'altra teoria di Vanoli, qual è? Di Vanoli, vada sul sito, il sito di Vanoli è pieno di grandi situazioni, o comunque basta digitare il dottor Giampaolo Vanoli. Ma il problema qual è? Che noi un gruppo di giovani che siamo grillini prima che esista il movimento grillino, cioè siamo persone per bene che vorrebbero trasparenza e giustezza, ci siamo avvicinati al movimento, e oggi lo stesso Mattia Calise, che è un giovane che è di Segrate, sa tutto di cosa è successo a Segrate, oltre a Vanoli, e cosa sta succedendo. Vabbè, adesso chi è quello che succede a Segrate nel Movimento 5 Stelle, chi se ne prega, Alessandro. Cioè... Il dottor Vanoli è uno dei cardini che attraverso il fatto che nel Movimento 5 Stelle chiunque avesse detto, ma guardate che non è trasparente, il dottor Vanoli fa vedere, lui dice di essere giornalista e fa vedere il bollettino di iscrizione, quel versamento alla posta, non fa vedere la tessera del giornalista. Quando uno si avvicina a un movimento insieme ad altra gente e si trova in mezzo a mistificatori, è chiaro che ci si allontana. Lei si è allontanato dal 5 Stelle di Segrate perché ha incontrato uno come Vanoli? Perché ho incontrato uno come Vanoli e perché l'hanno difeso, non è stato possibile discuterne, ma non solo, noi abbiamo provato a uscire dal Movimento 5 Stelle di Segrate, sai che adesso Calise ha portato la smentita, no? Ed è il primo firmatario. Calise, io ho gli scambi di mail a cui lui non ha mai risposto, dove io lanciavo degli allarmi su quello che erano, se uno è cattolico entra in chiesa senza bestemmiare, se uno è grillino entra in un movimento e deve avere dei principi che si condividono, sono quattro regole, facile rispettarle. Grazie. Well now, little mosquito, there must be. Allora facciamo un po' il punto sulla vicenda Crimi, La vicenda Crimi, questo strano personaggio che ci vuole dare lezioni di giornalismo, caro Parenzo, lezioni di giornalismo, signor Crimi. E in particolare anche il tuo amico Incerti, quello che ti ha mandato il messaggio. Sì, ma ci ha dato il numero. No, questo tizio dice: nell'interesse dei cittadini e della crescita culturale dell'Italia, si chiede un'informazione che parli di fatti concreti. Allora io dico a questo Incerti, alla Grillo, ma vaffanculo. Cioè, glielo dico in maniera chiara, ma glielo dico nel modo in cui lo dice Grillo, vaffanculo. Cioè, nel senso che, scusi un attimo, signor Incerti, non è lei che decide, non è Grillo, non è il blog di Grillo che decide quella che è l'informazione corretta e quella che è l'informazione scorretta. Su che cosa bisogna lavorare? L'Italia, per fortuna, è una democrazia in cui c'è di tutto, c'è l'informazione politica di approfondimento, ci sono le trasmissioni di approfondimento, ci sono le trasmissioni di intrattenimento, eccetera, eccetera. Il gossip, il cosiddetto gossip anche politico, esiste in quanto esiste la democrazia. E per fortuna, dico io, per fortuna. Allora, Crimi sostiene. Allora, risentiamo la frase clou innanzitutto. Crimi che dice: i giornalisti mi stanno sul cazzo. Rispetto alle TV e ai giornalisti, guarda che veramente vi sto rifiutando tutti, perché... E infatti noi non siamo... veramente sul cazzo, guarda, i giornalisti è una roba... Ma perché purtroppo è un discorso... Poi dice: mi hanno detto che non erano giornalisti, situazione non istituzionale. Avevo fatto 20 minuti di strada con la mia borsa piena di roba al tracollo, mi hanno fermato. Crimi, facciamo due domande. E prima di fare le domande mi hanno chiesto, appunto, io ho chiesto: ma siete giornalisti? No, per carità. Ho detto no, e lì mi è scappata quella frase. Però stiamo parlando di una situazione assolutamente fuori da ogni livello istituzionale. Ti credo che è una situazione fuori da ogni livello istituzionale, altrimenti non ne parleremo. Poi ha detto: erano studenti e non giornalisti, ho capito dopo che registravano. Siamo qui con i protagonisti di questa vicenda. Carlo Brenner, buonasera. Buonasera. Eccoci qui, è con noi anche Giulio Del Gallo. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Tutti e due bravi di Radio ragazzi. Tutti e due di Radio Luis. Bravi ragazzi, viva Radio Luis, viva la Università della Confindustria. Avete fatto il vostro grande lavoro. Buonanotte, ci sentiamo domani lunedì alle 18:30. Ma non fare lo stronzo, dai. Ma allora, non faccio il cretino, Ah no. A proposito, signora Almirante, volevo dire, mi hanno appena segnalato che hanno trovato il busto all'Università Guido Carli, cioè alla Luis. No, appena trovato, no, avvistato al massimo. Al massimo. No, no, no, no, mi hanno proprio segnalato. Ma mi hanno segnalato Che è successo? Chi è che parla? Cruciani, sono Giulio Del Gallo, posso dire una cosa a Parenzo? Sì, sì. Abbiamo fatto una cosa normalissima. Sì. Bravi. Abbiamo semplicemente fatto una chiacchierata e abbiamo voluto metterla in rete, come dicono, come dice tanto lui, no? Sì. Movimento 5 Stelle l'abbiamo messa in rete. In rete, l'abbiamo messa in rete. L'abbiamo messa in rete, l'avete anche data a noi. Bravi. Cose che si fanno normalmente. Bravissimi. Cioè, se uno registra una cosa, non è che se la tiene, la fa per diffonderla, altrimenti che la registra a fare per tenersela a casa nei cassetti. Io non me la sento la notte prima di andare a dormire, sinceramente, da solo. Sempre. Bravissimi. Applausi. Poi infatti, in nome della trasparenza, noi abbiamo deciso di metterla tutta integralmente, poi voi ne avete fatto un altro utilizzo e l'avete spezzettata, ma noi prima che arrivasse alla Zanzara è stata integralmente messa in rete e ci si può facilmente rendere conto che era una registrazione spontanea e che si capiva benissimo che era registrato. Ecco, no, questo io voglio capire. Oggi Crimi dice una cosa, sul sito di Grillo è apparsa un'altra cosa, diciamo ancora più estrema da questo punto di vista, in cui si parla addirittura di fuori onda. Ma specifichiamo subito, Brenner, chi parla? Allora, non c'è la distinzione tra onda e fuori onda. Chiunque ascoltasse, dovesse ascoltare l'intervista, si può rendere conto facilmente che il tono è sempre lo stesso ed è quello di una conversazione. E quindi non si capisce. Tra l'altro, al minuto 9:50 c'è Giulio Del Gallo che mi dice: stoppa la registrazione. Sentiamolo, sentiamolo, sentiamolo. Un attimo solo, adesso lo mettiamo. E dunque, questo per dire che Crimi era perfettamente consapevole che stavate registrando sin dall'inizio, giusto? C'era un iPhone, ce l'aveva in bocca praticamente. Questo è Del Gallo che parla, se no ci confondiamo. Partiamo con la registrazione. Comunque, con piacere. Allora, il contatto via mail. Sei staccato? Chiuso? Sì, posso soltanto l'ultimissima cosa così. Che... Vabbè, da questo si evince che Crimi sapeva fin dall'inizio che stavate registrando, perché lui dice: no, ho saputo dopo che stavano registrando, dunque la frase... No, ma guarda che non è neanche così, perché Crimi su Facebook ha scritto: lo sapevo che era un'intervista, semplicemente c'è questo fuori onda, di cui chiedo scusa. E tra l'altro c'è un'incongruenza, cioè, tra quello dice, che dice lui dice, quello che dice Incerti. Scusami. Perché Incerti dice che non sapeva che fosse un'intervista, non sapeva niente. Sì. Invece lo sapeva, perché è lo stesso Crimi ad ammettere: sì, era un'intervista, mi spiace per quel fuori onda e vorrei che i ragazzi mi chiedessero scusa. Adesso noi possiamo benissimo chiedere scusa se ha dato fastidio a Crimi che noi avessimo messo quel fuori onda, ma in nome della trasparenza, che è un principio del Movimento 5 Stelle, noi abbiamo deciso di mettere tutto a disposizione degli utenti. Ma io non ho capito se lui si riferisce, perché i giornalisti che mi stanno sul cazzo, lui lo considera un fuori onda? Esatto, ma chiunque ascoltasse la registrazione si rende conto che è uguale a tutto il resto come tono di voce. Cioè, allora voi prima di quella frase gli avevate già detto che stavate registrando? Quella frase lì, noi ci siamo avvicinati, come è successo Giulio? Perché l'ha fermato Giulio. Allora io ho corso un po' sul marciapiede, l'ho visto di spalle, l'ho chiamato, lui ha chiuso una telefonata che aveva, Carlo mi stava accanto e gli ho detto: Crimi, posso, siamo degli studenti di Radio Luis e possiamo fare un'intervista? E in quel momento lui ha iniziato a registrare, ha tirato fuori il telefono, adesso non ho... Siccome è Carlo che ha messo play, non so quando è che l'ha messo esattamente. Vabbè, insomma, lui era consapevole che in quel momento iniziavate a registrare. Sì, chiaramente posso dire una cosa, Cruciani. Sì. Chiaramente se ti vedi arrivare un normale, cioè un giornalista normale con un cameraman dietro, con la telecamera, ti rendi conto meglio che si sta parlando di un'intervista vera e propria. Due ragazzi che ti avvicinano, probabilmente lui l'ha messa un po' più sulla cesta. Vabbè, quello molto disponibile. No, quello è chiaro che si è sentito più rilassato, perché non era di fronte. Si è sentito rilassato, erano le 11 di sera, lui ha detto tutte cose poi abbastanza vere, cioè no, tutte cose vere. Erano le 11 di sera, era stanco, quello sicuramente, stava camminando, io in maniera molto gentile gli ho detto: Crimi, possiamo fare delle domande, siamo di Radio Luis, cioè di Radio Luis, non prendiamoci una birra insieme, raccontami un po' i cazzi tuoi. Siamo di Radio Luis, fai delle domande. Lui Carlo col cellulare in mano bianco, che lo vedevi bene, abbiamo iniziato a parlare. Lui, lui non lo voleva dire con cattiveria, lo diceva un po' rilassato, stanco, diceva È stato veramente piacevole come conversazione. Infatti a me spiace tutto questo caso che si è creato intorno a questa cosa, perché è stato veramente una cosa piacevole. Ci siamo scambiati i contatti alla fine, eravamo veramente felici. A quel punto ci siamo ritrovati con una bella intervista in mano, che era considerata bella da parte di tutti e due, da noi che l'abbiamo fatta e da lui che l'ha ricevuta. Allora, ma poi voglio dire un'ultima cosa, voglio dire una cosa anche a Parenzo. Ma io dico, no, se tu vedi il capo dei grillini, che non danno, non rilasciano interviste a nessuno, solo a giornali stranieri. Certo, che fai così, poi? Sì. Che fai? Non gli chiedi un'intervista, cioè, ma non lo dico, ma, a parte non è che gli dai mai torto. Ma no, ma poi il problema è uno, forse non si aspettava questa diffusione, ma voi siete ragazzi, non siete giornalisti iscritti, ma a me non me ne frega niente dell'ordine. Il problema è un altro, è che è evidente che se uno poi ha in mano questa cosa, anche se la, cioè, mettiamo che voi la lasciavate solamente nel sito della Luis, eccetera, sarebbe successa la stessa cosa, non è che sarebbe successo niente di diverso. Ormai è tutto la rete, connettività. Com'è, Parenzo, è tutto interconnesso. Com'è che dice Grillo, Parenzo? Ma è tutto interconnesso. Ma la Luis non serve a un cazzo. Come non serve un cazzo la Luis? Ma non serve a nulla. Ma signor Carli è morto. Ma quello sì, però che c'entra, scusa. Vedi che ma lo dici anche tu, come capire perché sei interconnesso bevendo il piscio? Finalmente. È tutto collegato. Beh, devo dire una cosa, caro Parenzo, che in questi 3-4 minuti è successo di tutto. È successo di tutto. Non ho bevuto l'urina, non ho bevuto ancora l'urina. Inizierò la prossima settimana. Te lo comunico ufficialmente. Voglio fare una prova dell'urinoterapia, che è una cosa vecchia di 5.000 anni. Ma ho scoperto una cosa straordinaria. Posta la fai una foto, vai fino in fondo nella casa di certo, Letto. Certo, voglio certo. Una foto postata su Twitter, su dove ti pare. Assolutamente. Che dimostra le fasi, non solo con il bicchiere in mano. Ti voglio vedere che la deglutisci e che prendi le sembianze di quella via Vaoli, aspetta, che ti trasformerai in quella roba lì. Beh, Vaoli a 72 anni sta benissimo. Allora, ho scoperto una cosa straordinaria. Brenner? Sì. Carlo, allora l'autore, sì. L'autore dello scoop su Crimi, uno degli autori, in realtà è il figlio di Sgarbi. Beh, in realtà Carlo Brenner, e sono Carlo Brenner, non è che in realtà sono il figlio di Sgarbi. Confessa, ah, beh, dai, certo, Carlo. È vero. Confessa. Non devo confessare niente, io sono figlio di Patrizia Brenner, ma chi se ne frega che sono figlio di uno? Io mi sono presentato come Carlo Brenner, ho fatto la cosa. Ma lo so, Brenner. Ma lo so che non ti sei. Fuori in me, ma tant'è. No, aspetta, stai calmo. Tant'è che te lo dico adesso, io non ci ho nemmeno pensato, mi è venuto in mente grazie al suggerimento, di una collega adesso nella pubblicità, sono andato a controllare ed effettivamente è così, non lo sapevo, non mi sono interessato, se me l'avessi detto non sarebbe cambiato nulla, però io non è che faccio di mestiere il... Si distorce la notizia, non si distorce nulla, vabbè lascia decidere agli altri, ti metti a fare come quelli del 5 Stelle. Ma dov'è il problema? Non c'è nessun problema, è una curiosità, non c'è nessun problema, era una curiosità, e vuol dire ragazzi, ma di che... Vabbè, noi questo facciamo di mestiere, non è che sto qui a pettinare le bambole, sto qui a fare... Allora, io sono figlio di Patrizia Brenner. Assolutamente, e anche di Vittorio Sgarbi. Sì, esatto, Vittorio Sgarbi è il mio genitore. È tuo genitore, vabbè, fai la... stai alla Luis, no, ma non mi ricordavo tutte queste cose. Non ci siamo mai conosciuti. Quindi. No, non mi ricordavo queste cose. Ho un rapporto con il tuo genitore, ma perché non lo chiami padre, scusa? Perché padre c'ha degli altri significati all'interno e direi che è più appropriato dire genitore, cioè chi ti ha generato, ma padre c'ha anche una funzione educativa. Che... No, ma c'è, infatti, non voglio scendere in queste cose. Comunque, sì, vabbè. Sì, molto serio, uso i termini con cognizione. No, però adesso io siccome parlo con Carlo Brenner da un paio di giorni e sono abituato a sentire Vittorio Sgarbi molto spesso... devo dire che nell'approccio anche alle cose che sono accadute in questi giorni, ecco, sai che significa la notte, il giorno e la notte, Parenzo? Cioè, proprio c'è una diversità. Infatti, ma le persone, ma anche i figli, i figli, lui ha fatto benissimo per la sua vita privata a specificare questa cosa, ma i figli sono esseri, come dire, indipendenti con una propria... Vabbè, uno può prendere anche... genetico. Ma non, dove dire, in consulta di quel tuo amico Lino, quel naturopata lì, che magari avrà sicuramente risposte anche su questo, no? Che Carlo Bremner è una persona normale, perché a differenza non beve piscio, non fa urine, non come dire, non fa pratiche sessuali, è una persona normalista che deve avere l'encomio dall'ordine dei giornalisti, sì. Deve essere data una tessera ad honorem all'ordine dei professionisti, senza passare per gli esami, per queste cose qui, no proprio ad honorem. Beh, anche signor Del Gallo, allora, anche signor Del Gallo, tutte e due ragazzi, ovvio, con assunzione a tempo indeterminato al Corriere della Sera articolo 1 a 3.500 euro al mese per iniziare. Hanno smascherato queste persone, che devono essere smascherate. Cioè, il fatto che Parenzo, uno... posso dire una cosa per ritornare un attimo sul tema. Io sono stato felicissimo di fare l'intervista a Crimi, e io devo dire che lo stimo, perché trovo che sia una cosa stupenda poter fermare. Ma hai votato 5 Stelle? No, non ho votato 5 Stelle. Ma Del Gallo, tu hai votato 5 Stelle? Fermare una persona per strada, un rappresentante per strada, e poter parlare con lui, dialogare come abbiamo dialogato. No, ma quello, infatti, quello che proprio non ha capito niente di tutto, e che piacerebbe anche parlarci, è questo incerto. Non ha capito niente, ha proprio nulla. Ad a partire dal fatto che lui non sapeva l'intervista, invece lo sapeva che l'ha ammesso lo stesso Crimi, e poi ha parlato oggi di deontologia professionale. Ha detto: i giornalisti ora non hanno più la deontologia professionale. Ma allora, tu se fai parte di un movimento che non riconosce i giornalisti, non volete fare intervista con i giornalisti, adesso ti appelli alla deontologia dei giornalisti che noi non abbiamo avuto. Ma cosa stai dicendo? Vai addosso all'ordine dei giornalisti. Benissimo. Ma quale deontologia? La deontologia, semmai quella che abbiamo seguito, è quella della trasparenza. Tutto quello che ha detto è stato pubblicato, ognuno si fa la sua opinione. Che deontologia è, incerti? Ma io. Ma poi, se posso dire una cosa, secondo me, se si occupano, se hanno deciso di occuparsi della cosa pubblica, la cosa pubblica si occupa pure di loro, nel senso che hanno un incarico, quello è un incarico istituzionale molto importante. E anche se sei rilassato di sera, se dici i giornalisti mi stanno sul cazzo, probabilmente è normale che vai a finire sui giornali. Vabbè, quello chi se ne frega, quella lì è veramente colpa dei giornalisti, che hanno fatto soltanto la notizia, era soltanto quella lì, ha dato tantissime altre cose. Ma adesso non dare la colpa ai giornalisti, è normale che quando uno dice i giornalisti mi stanno sul cazzo, la notizia diventa quella più o meno, dai, su. Ma diciamo, neanche tanti giornalisti, però chi decide l'impaginazione, che ha voluto mettere il fuoco sul fatto che ma lui funziona, detto, così, caro Brenner, funziona così, funziona. Ma hai sempre i capelli lunghi? Come nelle foto da... Quali foto? Le foto che circolano adesso. Non mi stimolare su questo, sennò inizia una tarantella che dura 20 minuti sotto padre, cioè anzi sul tuo genitore. Però non voglio infierire, dai. Bene. Ciao ragazzi! Ciao! A presto, auguri! Ciao. Auguri! Bravi! Ciao! Stefano da Modena, buonasera! Stefano! Buonasera! Vada! Ascolti una cosa, volevo parlare in termini del tipo che diceva della pipì che beve, dell'urinoterapia. Sì. No, volevo dire che, insomma, con tutta la merda che ci ha tirato addosso la classe politica in questi anni, devo dire che mi stupisce ben poco la dichiarazione del grillino, insomma. Cioè? Cioè di puzza ce n'è dappertutto da queste parti. E quindi l'urinoterapia direi che anche... insomma, la cosa più auspicabile, insomma, rispetto a quello che hanno fatto. Ma chi? Pronto? Ma chi? Auspicabile chi? Cosa? No, dico che tutta la classe dirigente, sì. O politica fondamentalmente, capito? Sì. Che dovrebbe fare l'urinoterapia per vedere se qualcosa al cervello poi gli arriva di migliore, capito? Per vedere se il sangue inizia a circolare meglio. Lei dice... Io lo accoglierei il consiglio dell'urinoterapia, capito? Lei dice? Urinoterapia e areofagia anche. Bene. E nasali, ha capito? Va bene, Stefano, grazie. Bene, assolutamente. Ma è con noi, ben ritrovato alla Zanzara, il senatore Antonio Razzi dall'Abruzzo. Ciao. Un abbraccio, caro Razzi, come stai? Buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora? Ma che, torpedone, no? Stavo mangiando, adesso mi sono alzato e... Cosa mangia il senatore Razzi? Ma sai che Razzi, devo dirti, devo confessarlo. Sì. Devo confessarlo per la trasparenza. Dimmi. Razzi, prima delle elezioni, quando facevamo il collegamento per la trasmissione in onda, questa splendida trasmissione della 7, prodotta dalla 7, salutiamo Gigliani e soprattutto il signor Cairo. Vabbè, dai. Mi ha portato a cena dopo il collegamento in un ristorante dove mi ha fatto assaggiare delle cose abruzzesi meravigliose. Chi ha pagato? No, stavo arrivando proprio a questo, infatti. Sì. stiamo proprio arrivando. Sì, non c'è bisogno di. Non ho pagato il conto perché mi è stato offerto. Non, no, stai calmo. Non da Razzi, ma dal ristoratore. Quindi io per trasparenza dico che ho provato a pagare il conto facendo un gesto neanche troppo insistente. Bah, anche bah, su questo bah, bisogna. No, chiaro. Neanche troppo insistente. Cioè, ho detto allora faccio io. No, no, no, no, non ho insistito ulteriormente, diciamo, come da tradizione, quindi non ho. Questo lo devo dichiarare. Ma scusi, ma Razzi, però il ristoratore è un amico suo, era? Sì, sì. Diciamola tutta. Non va... io l'avevo detto che era il melograno che gli avevo invitato pure a te. Io non c'ero, ma allora lei va sempre a scrocco là in quel ristorante? No, no, no, io pago sempre. No, no, no, no, no, no, no, no, anzi. E quella volta siete andati gratis, ho pagato lei di non so. No, questa volta, siccome c'era i due artisti, allora. E allora vabbè, e allora ha offerto. È andata bene anche a me, vedi? Ha offerto lui, su, ha offerto invece, lui. Invece questa sera sono da Franco al porto turistico, forse lo conosci lì a Pescara. E come no? A porto turistico da Franco? Da Franco, sì. E noi stavo mangiando il pesce. Quanto perché... si paga là? Quanto si paga? Ma non si paga molto, guarda, siamo circa 30 euro a testa si mangia bene. E stasera che hai ordinato, scusami Antonio? Io le linguine allo scoglio, sono un fanatico delle linguine allo scoglio. E poi? E poi una fritturina, e basta. Linguine allo scoglio, fritturina, vino bianco? No, vino rosso, perché il vino bianco non riesco a dormire, col vino rosso mi calma. Giusto, giusto. E dormo. Caffeino no, per carità. No, no, no, no, niente, niente. Poi una genziana, tipico abruzzese. Una genziana? Un'amara abruzzese. Antipasto, niente? Antipasto no, perché se no non posso gustarmi la pasta. Linguine? Siccome io sono un fanatico della pasta, allora... Beh, ma a dieta mai, No, no, no, no, no. Non c'è bisogno. Io, per fortuna mi mantengo ancora bene. Oh, intanto qualcuno già mi ha mandato un messaggio, non mi sembra che David abbia provato a pagare, te lo dico subito. E qualcuno che era con voi lì, non mi pare che David abbia provato a pagare al ristorante. Ho detto alla persona mi sembrava che strano, mi sembrava strano, mi sembrava strano. La persona che era l'amico fraterno che era lì con me, anche lui, essendo poi di origini, come dire, genovesi, non ha liguri, anche lui non ha fatto neanche il bojest, diciamo. Ma io, siccome il ristoratore non trovo nulla di male, a che il... Vabbè, anche vabbè. Perché Razzi lo mazzoleremo comunque, e sempre, non sarà certo una cena che non mi fa mazzuolare il signor Razzi. No, guarda, no, certo. Siete sempre invitati, non vi preoccupate. Sente, senatore Razzi, ma voglio capire una cosa. Si può campare a Roma con 5.000 euro lordi? No, vedi, io ho detto, prima di parlare di 5.000 o 6.000 o 7.000 che sia, io ho consigliato agli amici grillini, sì, almeno fate 6 mesi lì, vivete a Roma 6 mesi, e poi magari dite si può campare con 5.000. Ma secondo lei si può campare o no? Ma come si fa? Io, se uno ha due segretari, sì, come ce l'ho io, uno in Abruzzo e uno a Roma, perché mi serve nell'ufficio lì a Roma, sì, e lo dobbiamo pagare con la paga che noi riceviamo. Beh, quello è l'altro, quello è il resto, quella è l'indennità. Allora i 5.000 che è lordi, lo dai alle segretarie e tu cambi così, di santità. No, però scusi Razzi, quelli sono i soldi dell'indennità, poi ci sono quelli per i collaboratori, eccetera, eccetera. No, loro dicono 5.000 lordi è sufficiente. Tutto compreso, dice. Come si fa? Ma lei dove vive a Roma? In albergo? Io vivo un alberghetto. Quante che stelle? Pago... Eh? A quante stelle è st'albergo? Ce n'hanno messo uno e mezza, non lo so. Una stella? Ma è una topaia. Una stella? È una topaia, una stella? Ma io, siccome facevo l'operaio, io mi adatto. E com'è la stanza? No, non è male. Ma è pulito? Insomma. Il bagno è pulito, c'ha la doccia. Io mi accontento perché tanto vado solo a dormire e poi vado al lavoro. E che ci tiene là dentro? Qualche cosa? Che ci no, tiene? Niente. Così, spoglio. Assolutamente. Io solo faccio colazione e poi vado via. La doccia e se la fa? E poi ritorno la notte solo per dormire. Ma la doccia se la fa la mattina, no? Poi ci mancherebbe quello. Ma che ne quello so? Almeno c'è. Quello almeno c'è. Quello. Almeno c'è. Quello c'è. Ma dov'è sta alberga una stella a Roma? Dove stanno sti alberghi? A Via dei Due Macelli. A Via dei Due Macelli. Per cui lei la sua giornata tipica a che ora si alza? In questa alberga una stella? Tristezza pazzesca. Io mi mi alzo sempre verso le 5:30 le 6, perché e chi trova questo albergo? Mi faccio la doccia tranquillo e poi sì. alle 7:30 faccio colazione sì. e alle 8 quando apre la camera, certo. adesso prima la camera, adesso è il Senato. Già sono lì pronto per lavorare, per controllarmi che la meraviglia. Porta, per controllarmi tutto. E siccome io prima sì. quando lavoravo in Svizzera sì. Andavo alle 6:30. Allora alle 8 per me già in ritardo. Comunque con 5.000 non ce la si fa, non c'è niente da fare. No, beh, io credo che magari loro sono giovani, hanno degli amici grillini, sono giovani magari, forse, non lo so, forse avevano un altro lavoro che prendevano 1.000-1.500, magari vivevano con i genitori. Ah, sono partiti dal basso, dice lei, sono partiti. Magari vivevano con i genitori, è chiaro che uno ce la fa. Ma lei come ritorna in Abruzzo? Con che mezzi torna di solito? Io con la macchina o col pullman? Col pullman, come Parenzo? Però, col, io vado col pullman. Col torpedone, ma non la riconosce nessuno dentro il pullman? A razzi! Sì, che però, dicono? Qualcuno la insulta ogni tanto? No. Mai devo nessuno? Devo dire che no, qualcuno mi saluta, onorevole, deve dire che adesso, no. Ma non... Non chiedono niente, no? Qualche favore ogni tanto? Ma sì, qualcuno. Magari dici, se c'è qualche posto di lavoro, dice, e lei che volentieri, ma non... Lei come risponde? Posto di lavoro dove? Poi? Non è che lei fa ma dove? Appena ce l'ho per me. Appunto, non... cioè... Ma mica fa l'agenzia di collocamento? Appunto, dovrebbe rispondere così. No. Scusi, dia un consiglio a Bersani. Qual è il consiglio? Buttarsi sotto la ponte? Che dovrebbe fare? Ma guarda, Bersani gli ha fatto una proposta eccezionale, gliel'ha fatto il presidente Berlusconi, quello di Berlusconi fa sempre proposte eccezionali, ma è l'unico che lo fa, Berlusconi è Berlusconi, non è che se Berlusconi dà lavoro a quasi 60.000 famiglie italiane, non è che è una persona così. Non è a caso, dice lei, non è a caso. È chiaro, vuol dire che ha avuto... come si dice in spagnolo, tiene cabeza. Scusi un attimo, perché non l'ha data lui l'incarico a Napolitano? Poteva dare direttamente a lui? Beh no, per correttezza si dà sempre a chi ha vinto, anche se ha vinto con lo 0,37%, è chiaro che le deve dare. Però il consiglio è quello, si metta d'accordo con Berlusconi, no? Che... Ma è il consiglio, io glielo do pure a gratis. Anch'io glielo do gratis. È quello di mettersi per il bene del paese. Per il bene del paese. Per il bene del paese, l'ha detto anche il presidente Berlusconi. Io per il bene del paese mi allego con Bersani. Ma le pare possibile che Bersani si allega con Razzi? Diciamo la verità. Ma perché no? Se si riesce a governare, se si riesce a dare lavoro... Ma lei se lo vede, lei è alleato con Razzi, lei è alleato con Bersani, Bersani è alleato con Razzi, su, siamo seri. Perché no? Senatore Razzi. Finché facciamo il bene per il bene dei cittadini, perché no? Come dire, si può alleare con qualsiasi pur che si fa del bene all'Italia e agli italiani. Vabbè, comunque, ragazzi, hai capito? la dritta sul figlio di Sgarbi che ha intervistato Crimi, ha fatto il colpo su Crimi, mi era data una persona che si chiama Marta Cagnola. Io non me ne ero accorto, non ci pensavo, ero talmente preso da questa cosa qua che una collega che si chiama Marta Cagnola mi ha scritto: ma non è che è il figlio di Sgarbi che ha fatto lo scoop, è il figlio di Sgarbi. Razzi, un abbraccio. Ok, grazie, a presto. Le linguine, mi raccomando, le linguine, vi aspetto a Pescara. Le linguine, siete sempre i benvenuti. Le linguine, grazie, le linguine, e buona serata. A lunedì 18:30, ciao. Mi sta parlando di un cartone animato. Cioè, sono cartoni animati, copia e disincolla lo chiamano. Maroni è un rappresentante dell'Oreal, di profumi, di shampoo, dai. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma vaffanculo, te lo dico subito. Radio 24. La passione si sente.